In collegamento telefonico con Velia Viti, coautrice e regista dello spettacolo Le Petite Robes Noires, che sarà al Teatro Trastevere a Roma il 7 e 8 marzo. Velia, benvenuta. Ce Grazie, ciao, ciao. lo presenti un po'? Allora, lo spettacolo è incentrato sulla vita di Edith Piaf, però non è una biografia, altrimenti insomma ne abbiamo viste tante di spettacoli, adesso ultimamente anche il film La Vie Rose sulla Sì. vita di Piaf, quindi diciamo che c'è una scelta di alcuni episodi precisi della vita della Piaf, un po' più curiosi, anche un po' più morbosi, e c'è un modo personale di collegarli fra loro, c'è una lettura, diciamo che c'è una lettura personale di alcuni episodi della vita della Piaf, ovviamente anche le sue canzoni, ci sono appunto vengono appunto messe nello spettacolo diversi momenti in cui vengono rievocati anche i successi della sua vita professionale, però soprattutto andiamo a toccare degli elementi della vita personale, quindi la relazione con Marcel Cerdan soprattutto, prima di tutto, e quella con Jean Cocteau. Questo. Come mai questa scelta? Un punto, prima di tutto per evitare di comunque raccontare nuovamente una storia raccontata tante volte. E poi non lo so, c'è cioè proprio sono dei momenti della sua vita che in qualche modo non si comunque non sono, non riguardano più soltanto lei, ma hanno un valore più ampio, vabbè, come un po' la vita di tutti in realtà, però mi interessava raccontare soprattutto ciò che della sua vita è legato al nero. Diciamo, sicuramente il filo conduttore importante di questo spettacolo è il nero. Il nero inteso ovviamente non solo non come colore nero, però tutto ciò che c'è di oscuro, tutto ciò che c'è di tutte le ombre, i fantasmi del passato. E appunto la vita di Piaf è piena di questi lati oscuri e questo è quello che ci interessava raccontare. Com'era partito il progetto? Allora, io volevo, diciamo, già da un po' di tempo lavorare con Anna Maria Jacopini, mi interessava, insomma, lavorare con lei come attrice e mi interessava fare uno spettacolo che unisse teatro e danza. Quindi c'è anche in scena una ballerina che è Cristina Pensiero, che ha anche curato le coreografie e quindi mi interessava comunque raccontare una storia unendo la parola e la danza e non raccontarla, ripeto, in modo didascalico, raccontare, avere dei flash, delle suggestioni, ecco, lo spettacolo diciamo che sono un insieme di suggestioni. Questo era un po' l'idea. E proprio a questo proposito ti chiedo come hai immaginato la messa in scena. Immaginato, Nel come, senso, cioè, come l'avevo pensata proprio dal all'inizio. punto di vista registico, sì. Allora, diciamo che ripeto, il centro dello spettacolo e del tasso è questa cosa, sono questi fantasmi, queste le ombre, i lati oscuri. Quindi Sì. sicuramente io immaginavo una scena che fosse molto tagliata dal punto di vista di luci, cioè con molti chiariscuri. E un'altra cosa che infatti poi c'è in scena è la presenza dei manichini, che in qualche modo sono appunto delle presenze silenziose, quindi che possono rievocare questi spiriti, questi fantasmi. Perché poi un'altra cosa appunto, che in realtà mi ha colpito della vita della Piaf, da cui poi siamo partiti fondamentalmente, è il fatto che lei fosse molto interessata allo spiritismo, alle sedute spiritiche, alla reincarnazione. Quindi c'è questo filone un po', come dire, Esoterico. esoterico, esatto. Senti, ha già una vita sua o si tratta di una prima? Ok. E a questo punto ci lasci anche tutti i riferimenti internet per saperne di più? Allora, internet. Sì, c'è pagina Facebook, sito Ah, internet. sì. Guarda, sì, in realtà, diciamo diciamo sulla, non c'è una pagina specifica, c'è però il Facebook, c'è il sito del Teatro Trastevere, Ok. su cui sono tutte le informazioni, e poi insomma è comunque è il 7-8 marzo alle ore 21. E in entrambi i giorni lo spettacolo è preceduto da un aperitivo, perché il 7 c'è l'inaugurazione di una mostra all'interno sempre dello spazio del Teatro Trastevere, e l'8 marzo invece è la festa della donna, quindi festeggiamo diciamo, prima dello spettacolo. E la cosa interessante, altra da dire, è che lo spettacolo di Piaf è stato inserito dal Teatro Trastevere all'interno di questa settimana che è dedicata alle donne legate alla musica. Sì. Women in Music è il titolo della settimana. E dopo di noi, appunto, c'è uno spettacolo della Caputo su Billie Holiday. Sì. Quindi diciamo è tutta una settimana legata all'8 marzo, alla festa della donna, e quindi le donne musica. Benissimo. Allora, un ringraziamento e un saluto a Velia Viti, coautrice e regista dello spettacolo Le Petites Robes Noires al Teatro Trastevere a Roma, 7-8 marzo. Velia, a risentirci presto. Ok, grazie. Ciao.